Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, la cronaca di questa giornata economico-finanziaria e coronavirus. Allora, sta capitando qualcosa di strano oggi sulle borse, mi spiego. Poco fa il presidente americano Trump ha dichiarato di aver chiesto al Congresso, scusate adesso la riprendo, uno stanziamento da 800 miliardi di dollari. Lo dico perché in realtà le borse, eccola qua, Trump chiede 800 miliardi di dollari al Congresso, adesso stiamo cercando di capire esattamente, un flash d'agenzia, due tranche separate, una da 500 e una da 300 miliardi per aiutare le piccole e medie imprese a pagare gli stipendi nell'emergenza coronavirus. Dico che sta capitando qualcosa di strano perché nei mercati oggi notiamo come Milano sia la migliore delle borse, perde l'1%, ma insomma è a 15.100 punti. Lo spread italiano ha avuto delle impennate oggi veramente in altalena, a 320 punti, poi ritracciato a 280, comunque insomma il BTP a 10 anni ha sfiorato il 3% di rendimento, poi da quindi il livello più alto dal febbraio 2019, non è una cosa drammatica, poi ha ripiegato. Poi sono arrivati anche dei dati italiani che segnalavano un mese di gennaio, ahimè, molto in crescita, dico ahimè perché chiaramente poi febbraio e soprattutto marzo saranno disastrosi. L'industria italiana a gennaio aveva fatturato il più 4% rispetto all'anno prima, e anche gli ordinativi non andavano male. Però stavo dicendo che mentre la borsa di Milano perde solo l'1%, Parigi perde il 6%, Francoforte il 5%, e l'America continua ad andare malissimo, meno 6%. È come se oggi, mentre la sterlina è scesa moltissimo a livelli da che non vedeva da anni, adesso vado a recuperare il dato, però la cosa che sembrerebbe è come se in questo momento i mercati fossero più scettici. È vero che hanno già molto scontato sull'Italia, però è come se si stessero concentrando su Francia, Germania e Stati Uniti. Avremo oggi un approfondimento proprio sulla Francia e sulla Gran Bretagna, perché anche Londra va male, meno 3,80%. Devo dirvi la verità, lo diciamo ogni giorno, adesso darò anch'io il calcolo dell'andamento delle varie curve. È pazzesco, ma insomma tutti i paesi non solo stanno fotocopiando quello, guardate in Francia che cosa è successo, multe, controlli, oltre 1.000 controlli una notte solo a Parigi. Iniziano purtroppo anche in Francia, la zona più colpita è il nord-est, l'Alsazia, ma non solo, sono già saturi. Qualcuno mi aveva scritto: ai francesi e tedeschi sono messi meglio di noi. Non mi sembra proprio come struttura sanitaria. Hanno già saturato gli ospedali del nord-est e stanno iniziando a trasportare i primi malati, che devono essere appunto intubati in terapia intensiva, con gli aerei militari nel sud, quindi centro-sud, Tolosa e Marsiglia. Non sta reggendo la sanità francese nel nord-est, perché il focolaio grosso è la metà dei casi, non ricordo male, lì. Per quello che riguarda l'aggiornamento, il motivo per cui parliamo oggi di Francia, permetto, e Gran Bretagna dell'Europa, è perché in realtà si sta creando un asse tra Macron e Conte, con Angela Merkel che questa sera dovrebbe parlare tenere un discorso alla nazione. Angela Merkel apre, non ha mai detto no, l'ipotesi è appunto di come suggerisce l'Italia, dei coronavirus bond, quindi obbligazioni in grado di carattere europeo, in grado di aiutare tutti i paesi, oppure un fondo di garanzia europeo che possa finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi. Quindi perché è importante che il fondo di garanzia sia europeo? Perché da questo punto di vista... altrimenti fai solo debito nazionale. Invece un fondo di garanzia europeo vuol dire che tu hai un plafond complessivo di centinaia di miliardi, a cui possono attingere i vari paesi in base appunto al danno che hanno avuto e alle iniziative che stanno prendendo. Le borse oggi, mi chiedete, sì, per 3 mesi sono state sospese le vendite a ribasso, col senno di poi si poteva anche far prima, però non posso, ormai è così, non solo a Parigi, non solo a Milano, anche in Spagna e Francia. Parleremo dell'Inghilterra e della Gran Bretagna, perché qui stiamo vedendo di tutto in questo coronavirus, e cioè prima lo spavaldo Trump dire no, ma l'influenza fa più morti, adesso è lì che sta chiedendo soldi da tutte le parti, piani di emergenza e quant'altro. Non so, l'indefinibile Boris Johnson, indefinibile perché nessuno ha capito quale fosse la sua strategia. Adesso però iniziano anche loro ad avere problemi di tenuta sanitaria. La Gran Bretagna, allora, per dare la classifica dei paesi, l'Italia, vabbè, usando l'Italia come il paese più avanti, ahimè, ma è anche quello che sta facendo da modello su tutti i provvedimenti presi. Lo dico ogni volta perché era facile è facile adesso prendere un copia e incolla di quello che ha fatto il governo italiano. Intanto siamo stati i primi noi. Il modulo che usano in Francia, se lo scaricate dal sito delle Figaro per esempio, è identico al modulo che abbiamo fatto noi. Ci si sposta solo per motivi di emergenza, necessità, sanità o lavoro. E poi parleremo anche di questo, perché la Lombardia, Fontana, è disperato, ancora troppa gente si muove. Il governo sta ragionando seriamente se non chiudere anche le attività sportive a questo punto. A chi mi dice ma il 3 aprile io non ci farei nessun affidamento, va bene? Perché vista la situazione col 3 aprile né sulle scuole, che probabilmente andranno con stragrande probabilità andranno da dopo Pasqua, né sull'ipotesi che si possa circolare per Pasqua, sarebbe una follia se questa è la tendenza di ripermettere l'apertura di ristoranti e bar sotto Pasqua, con il rischio altissimo di migliaia di italiani a far picnic, a far pasquetta fuori. Le abbiamo già viste queste cose, abbiamo capito che stiamo ancora tremando per quello che è successo il weekend del 6-7 di marzo. Manca solo buttare via tutto questo sforzo per tornare a Pasqua poi con i contagiati che salgono, per favore. Invece dicevo dicevo dell'andamento. Allora, la Francia i dati li dà in ritardo, quindi quelli sono quelli di ieri, ma vista la crescita di ieri la Francia va verso gli 9.000 contagiati, perché ieri ne ha avuti 1.200 in più. Ma veniamo ai dati più recenti, attendendo quelli italiani. La Spagna, che li ha già diffusi, è a 14.000, e quindi è esattamente come l'Italia giovedì scorso. La Spagna ha ridotto, ahimè, per lei il vantaggio sull'Italia, e ormai stiamo parlando di neanche 6 giorni, sostanzialmente. E noi ne avevamo 15.100 giovedì, la Spagna ne ha 14.000 oggi, e anche il numero di decessi in Spagna sta salendo molto, 623. La Germania, che ha diffuso i dati, è a 10.000 casi, quindi è esattamente come noi martedì scorso, e quindi ha un vantaggio di 8 giorni scarsi. La Francia, che appunto andrà con ogni probabilità a oltre 9.000 oggi, è a livello di come eravamo noi lunedì. Quindi la distanza è sostanzialmente tra la Spagna di come eravamo noi giovedì e la Francia come eravamo noi lunedì 9 marzo, dopo la stretta finale. E lì vedremo se riusciranno a invertire la tendenza. Per quello che riguarda, sì, c'è il caso dei medici malattia a Napoli, ne parleremo, sono 260, una cosa indegna. Guarda, i medici, gli infermieri, i vigili del fuoco, gli operatori sanitari, anche gli autotrasportatori, ci sono degli eroi in questo momento. Poi ci sono dei medici che si chiamano così solo per sbaglio, ma le mele marce esistono in qualunque settore. Quello che è avvenuto a Napoli in piena emergenza, dove medici primari in 240, adesso ritrovo la notizia, si sono messi malati, se non ricordo male era Cardarelli, eccolo qua, 249 operatori sanitari attualmente in malattia. Per fortuna la direzione dell'ospedale ha già disposto l'avvio di un'indagine interna. È un lato B, ripeto, che non va a inficiare quello che stanno facendo, tant'è che anche il ministro degli esteri Di Maio ha detto i medici in congedo per malattia sono eccezioni da punire, e Di Maio ha anche annunciato che arriveranno 800.000 mascherine verso l'Italia. Interessante anche il fatto che la Cina stia mandando 1 milione di mascherine alla Francia. No, lo dico perché sembrava che Francia e Germania fossero pronti con le mascherine, stanno avendo gli stessi problemi, che non è mal comune mezzo gaudio, ma almeno non risultare sempre noi peggiori. la Cina sta mandando 1 milione di mascherine alla Francia, perché la Francia è senza mascherine, o meglio, scarseggiano, così come i reparti di terapia intensiva in tutto il nord sono ormai saturi, lo ha detto il direttore sanitario del nord, della, diciamo, dipartimento del nord-est francese, e li stanno trasferendo. Ecco perché dico a Boris il pazzo, vorrei capire come ha intenzione di fare lui, visto che i problemi che, stanno, che abbiamo affrontato noi li stanno affrontando tutti gli altri paesi. Gli altri paesi, anche la Germania, che sembrava inizia ad avere grossi problemi sulla tenuta dei posti in terapia intensiva. Per quello che riguarda i temi di oggi, parleremo di nuovo del decreto, perché ci sono un insieme di cose anche importanti, ci sono piccole cose, per esempio i 100 euro dati a tutti, sono 8 milioni e 800 mila persone che stanno lavorando e hanno meno di 40.000 euro di reddito, avranno un bonus di 100 euro, che è un bonus sostanzialmente di non per le spese che puoi aver fatto, ma è un riconoscimento che c'è una parte del paese che deve lavorare, perché non può stare a casa e non può lavorare da casa. Spagna, Germania e Francia sono tutte, gli Stati Uniti stanno crescendo moltissimo, sono già 6.500. Il dato però deve essere aggiornato oggi, il dato era di ieri, quindi sono sostanzialmente come eravamo noi domenica 8. Allora, no, li faccio questi paragoni perché è importante capire come siamo messi noi rispetto agli altri. Parleremo appunto del decreto e poi ci collegheremo con il resto delle capitali europee sul doppio fronte di come stanno affrontando l'emergenza, ma anche e soprattutto se si sta verificando un asse europeo, Macron, Conte sicuramente. Il governo francese ha già annunciato che andrà al 3,9% nel rapporto deficit-PIL, la Spagna punta a mobilitare come 200 miliardi di euro attraverso le iniziative, la Francia ha messo 45 miliardi a disposizione per sostenere le imprese e i lavoratori. Le multe, dicevo, devo dire una cosa importante, poi ne parliamo delle multe perché ci sono ancora i coglioni virus, ma devo dire che sono una piccola parte. Poi Fontana lamenta che ci sono ancora troppi lombardi in giro e che si potrà arrivare anche al controllo. Eccola qua la notizia, breve lockdown anche per Londra, ma guardate, è una cosa pazzesca. E la cosa più pazzesca è la stupidità di chi aveva giorni e giorni di vantaggio e li ha buttati via, non usando l'esempio italiano, dicendo ah, poveri italiani, mi dispiace per gli italiani, e così avete buttato via un vantaggio enorme, ripercorrendo tutti gli errori che abbiamo fatto noi, ma almeno noi potevamo avere la scusa che eravamo i primi. Lockdown vuol dire che Londra adesso va a chiudere tutto, fine. Cioè è inutile, Boris Johnson ha provato, il papà... Poi si capisce, no? I padri prendono dei figli, il padre di Johnson ha detto ma io voglio andrò al pub se mi va. Beh, adesso non ci vai più al pub se ti chiudono Londra. E comunque, voglio dire, sto zitto, voilà. Sì, poi Jensen, sì, il medico che metteremo in classifica si chiama Jensen per venerdì, era quello che diceva che gli italiani in realtà non hanno voglia di lavorare, gli fa bene, erano contenti di stare a casa con la siesta. Eh sì, adesso vediamo cosa farà il genio di Jensen. Poi magari vi do anche l'indirizzo e tutto. Uno scrive due cosine venerdì a Jensen, che ha detto che noi stavamo così bene a casa perché siamo abituati a fare la siesta. Lui invece la siesta la fa nel cervello da sempre. Comunque 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. È appena arrivato il dato americano, 7.324 casi, quindi l'America è assolutamente come eravamo noi, eravamo a 7.375 domenica 8, appunto famoso giorno del blocco di Lombardia e di 11 altre aree, e lì sono loro. Allora è chiaro che ha ragione chi mi dice guardi che prende un po' a confrontare i casi, la popolazione americana è molto più alta, la popolazione spagnola è più bassa di quella italiana, è vero, infatti paradossalmente la Spagna con 14.000 casi, avendo due terzi della popolazione italiana, è messa peggio, nel senso che in proporzione dovrei fare il conto, la Spagna sarebbe già come noi probabilmente venerdì 13, venerdì scorso. Però adesso andiamo avanti con le altre notizie, perché vorrei rispiegare intanto che cosa prevede il primo provvedimento del governo. Guardate, non è tempo di polemiche, il governo ha già chiarito che ad aprile arriverà un altro provvedimento, un'altra manovra, perché devi rifinanziare tutto un insieme di cose che adesso hai varato, e poi questi sono provvedimenti tampone, nel senso che, come ripeto ossessivamente, cercano di non farti spendere soldi, rinvio delle scadenze fiscali e quant'altro. Ma poi ci vorrà l'iniziativa. Allora, Trump propone di dare $1,000 a tutti gli americani. Ho visto da noi anche qualcuno dire: diamo €1,000 a tutti gli italiani che dichiarano meno di €40,000. La spesa è sui 20 miliardi, però almeno daresti. Sì, sì, bisognerà mettere i soldi nei portafogli, ma soprattutto bisognerà far sì che i soldi vengano spesi. Lo dico perché a me convince molto di più il bonus che tu puoi utilizzare solo se lo spendi, per esempio in un albergo quest'estate o quando potremo, o la possibilità di detrarre le spese per le vacanze dalla dichiarazione dei redditi, perché allora vuol dire che io sono stimolato a spendere. Se tu in questo momento dai €1,000 a me, a chi è in regia, a me no, ma chi è in regia, probabilmente non li spende, li tiene perché non sa cosa capiterà a novembre, c'è troppa incertezza, quindi tu spendi 20 miliardi e non ti è niente. Se invece io do dei bonus, dei voucher, ti do €1,000, ma a patto che tu li spenda nei settori più colpiti, che sia il taxi, che sia il turismo in generale, dall'albergo al ristorante. Questo a me convince molto di più, perché li puoi utilizzare solo se li attivi, e allora questa potrebbe essere un'ipotesi. Dunque, andiamo avanti con l'altra notizia, c'è poco da dire. La Cina ha fatto meno 47%, ancora, ha fatto meno 80% nelle vendite auto a febbraio, meno 47% a metà marzo. Vabbè, non vi dico neanche le stime dell'ONU a rischio, 25 milioni, state buoni anche voi, nessuno sa dove andiamo a finire, 25 milioni di posti di lavoro nel mondo. Mnuchin ha detto negli Stati Uniti, segretario del Tesoro, attenzione, senza un'azione la disoccupazione potrebbe salire al 20%. Per quello che riguarda lo Standard & Poor's c'è una paura per una grande depressione anche negli Stati Uniti. Per quello che riguarda invece New York, è crollata anche il titolo Boeing. Ha chiesto 60 miliardi di aiuti, il titolo ha fatto meno 20%. Lo stato di New York si conferma quello più pesante assieme a New Jersey, soprattutto la città di New York ha più o meno 1400 casi. Per quello che riguarda l'Europa, sono la Isabel Schnabel, che è il membro tedesco del BCE, quella che aveva detto la frase "non siamo qua per abbassare gli spread", che poi la Lagarde ha ribadito, e facendo la peggior figura di palta che io ho mai visto fare in queste giornate difficilissime. La Gara è andata a nascondersi praticamente. La Schnabel oggi torna in un'intervista alla Zeit, dice: la BCE è pronta a fare il possibile entro il suo mandato, pronta a nuove misure se necessario. Vabbè, intanto state zitti, visto quello che siete riusciti a fare la settimana scorsa. Serve solidarietà dell'Unione Europea, non basta la BCE, certo che non basta la BCE. L'importante è che la BCE non ci si metta a fare danni. Johnson oggi, dopo aver detto il famoso, ricordate Johnson, l'effetto gregge, prepariamoci a dire addio ai nostri cari, adesso ha promesso aiuti a tutti i lavoratori. Nel frattempo la sterlina però è crollata sul dollaro a 1,18, è ai minimi dal 1985. Evidentemente il mercato sta punendo oggi i paesi dove secondo loro non si è ancora scaricata abbastanza. Adesso chiaramente l'Italia è stata la prima a essere presa di mira, però ripeto, vedere oggi Milano che perde l'1,1, Parigi che perde il 6,20, Francoforte il 5,30, Londra il 4, l'America il 6,70, vuol dire che si sta scaricando su altri mercati. Dicevo che dire che l'anno era iniziato bene per l'economia, con un rimbalzo molto forte del fatturato dell'industria italiana. C'erano stati anche dei dati molto buoni sulle esportazioni, che però ormai appartengono a un altro mondo, a una terra che ci siamo lasciati alle nostre spalle, in attesa di capire, come diceva Gramsci, quando arriverà il mondo nuovo. Sicuramente è il mondo vecchio quello. Poi arriverò ai singoli dettagli. Non me ne frega nulla di Bolsonaro. Sì, guarda, Bolsonaro è un personaggio, diciamo, fatti loro, cavoli dei brasiliani, oddio, cavoli anche un po' nostri, quando va a battere le foreste amazzoniche. Ha detto oggi: l'Italia è una città, è un paese pieno di vecchietti, in ogni palazzo ce ne sono almeno una coppia, come a Copacabana, per questo motivo ci sono tanti morti. Quanti anni ha Bolsonaro? Perché voglio spiegargli due cose. Adesso andiamo a vedere un attimo quanti anni ha Bolsonaro. Ancora, per quello che riguarda le notizie che hanno a che fare con l'Italia, allora, si lavora agli ospedali, sono state sbloccate, come dicevo, 800.000 mascherine verso l'Italia. Si lavora agli ospedali militari, una Piacenza e una Crema. L'ospedale di Piacenza dovrebbe essere pronto in 72 ore e quello di Crema c'è ancora il sopralluogo. Poi da venerdì sarà operativo, appunto, il primo ospedale da campo allestito grazie alla Samaritan's Purse. Avrà 15 tende con 60 posti letti, di cui 8 in terapia intensiva e 60 operatori. Io adesso voglio leggere alcune cose per far capire perché è importante l'appello a stare a casa. Allora, io vi leggo che cosa ha raccontato all'ANSA Nicolas Fakeris, impresario di agenzie di pompe funebri a Madone, in provincia di Bergamo. Così vediamo se qualcuno la capisce. Sono 3 giorni che non dormo. Lunedì sera ho avuto una crisi di nervi. Abbiamo seppellito 40 persone solo noi. Lui ha 28 anni e fa questo lavoro da 10 anni. E lui è quello che a sabato ha scattato la foto delle bare allineate nella cappella del cimitero di Bergamo. Siamo sommersi dal lavoro, aggiunge. È una cosa che non si riesce a spiegare. Non riusciamo a fermarci. È stancante, non vediamo la fine, viviamo con il terrore che il telefono continui a suonare. Molti sono i servizi a cui rinunciamo per la mancanza di tempo, di casse o di accessori. La cosa peggiore è continuare a dire ai parenti che non possono rivedere il loro caro per via della chiusura immediata del feretro. Tutti i funerali sono tristi, ma quelli delle persone che conosciamo lo sono ancora di più. Questo nel giorno in cui Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha detto: purtroppo i numeri del contagio non si riducono, bisogna fare presto perché tra poco non saremo più in grado di aiutare gli ammalati, e quindi bisogna cambiare ancora di più le abitudini, bisogna fare dei sacrifici per salvare delle vite umane. Tutti i giorni lo rifaccio questo appello. Amici, io lo sto dicendo in modo educato, fra un po' bisognerà cambiare il tono, perché se non la capite con le buone bisogna essere un pochettino più aggressivi anche nel farvela capire. Non dovete uscire, dovete stare a casa. Purtroppo i numeri del contagio non si riducono, continuano ad essere alti. Fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala. Amici, nessuno si sta chiedendo un sacrificio così. Gli stiamo chiedendo un sacrificio per salvare delle vite umane. Forse voi non l'avete ancora capito, ma ogni uscita di casa è un rischio per voi ed è un rischio per gli altri. Per adesso ve lo chiediamo, se si dovesse andare avanti chiederemo al governo di emanare dei provvedimenti ancora più rigorosi. Oh! Allora, le voci che avete sentito sono quelle delle voci bianche della Scala, che hanno chiaramente ognuno ha registrato un brano, e mi piaceva molto far sentire questi ragazzini, molti sono bambini, che cantano l'Inno d'Italia, perché bisogna essere veramente seri su questo. Allora, i controlli Viminale in una settimana ha denunciato 43.000 coglioni, per non dire altro, perché adesso ho le balle piene anch'io. Allora, io vi racconto un aneddoto, non sono mai biografico. Andando e tornando dal lavoro uso la macchina, lunedì sono stato fermato alle ore 8:30, quando avevo finito qui, verso le 21, da un controllo della polizia in pieno centro a Milano, tesserino, ho compilato il modulo e quant'altro. Questa mattina mi ha dato il cellulare, questa mattina, spiegando che era per motivo di lavoro, questa mattina mi ha chiamato il capo del personale e mi ha detto: scusami, ci ha chiamato la polizia per verificare, tu sei stato fermato? Sì, sono stato fermato. E va bene così, perché nonostante fossi un giornalista, nonostante avessi detto che ero in giro per lavoro e cambiato il modulo, hanno voluto chiamare solo 24 ore per vedere se io veramente ero in turno, e hanno chiesto una PEC certificata. Bravi i poliziotti, brava la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, tutti quelli che stanno facendo il loro lavoro. Contento di aver ricevuto stamattina una chiamata dall'ufficio del personale che mi diceva: guarda che stiamo dando la segnalazione, però adesso basta. Che miseria. Fra un po', grazie a questa banda di coglioni, stanno per proibire, perlomeno in Lombardia, anche l'attività sportiva all'aperto. Perché un conto è fare attività sportiva, andare fuori, fare una corsa e tornarsene a casa, un conto è andare a prendere il sole. Io oggi ho visto in un parco uno che stava lì con i figli a prendere il sole. Non è attività sportiva, ma dove devi abbronzarti che non si va da nessuna parte. Tanto non puoi uscire, che fai? Te guardi allo specchio abbronzato. E anche sulla metropolitana, l'invito in questo caso su Milano è al sindaco Sala: il problema è che non puoi ridurre i vagoni perché poi si affollano la mattina, allora fate come nei supermercati, più vagoni, operatori dell'ATM davanti ai vagoni, ne salgono, faccio per dire, non so quale sia la capita, 10, dopo i 10 aspetti il treno successivo, perché la gente deve andare anche a lavorare, non sta andando a passeggio la mattina in metropolitana. E anche la polizia locale, grazie alla polizia locale, ci mancherebbe, che fa tantissimi controlli. Allora, d'accordo con Luca Zaia, e lo voglio far sentire, era ospite questa mattina a Radio 24, che ha detto: dobbiamo trasformare le buone pratiche in un modello per tutti, e vedrete che quelli che gongolavano sputtanando l'Italia, la regione Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, e sto parlando di molti paesi europei, verranno da noi a copiare le nostre esperienze. Devo dire che lo stanno già facendo tutti. Ripeto, per curiosità andate sul sito delle Figaro, vi scaricate dove volete il modulo che devono firmare tutti i francesi, e vedete che è preso e tradotto da quello che l'Italia per prima ha varato, il famoso l'autocertificazione di cos'era, la prima per la Lombardia era il sabato 7, se non ricordo male. Comunque Zaia, il vero tema sono le best practice, no? Cioè buone pratiche, noi dobbiamo trasferire buone pratiche, e vedrete che tutti quelli che si sono, che gongolavano sputtanando l'Italia, sputtanando la regione Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, e sto parlando di molti paesi europei, verranno da noi a mutuare le nostre esperienze. Vedrete che dietro fronte farà la Gran Bretagna con l'immunità di gregge. È assolutamente vero che noi le regole le rispettiamo, però è pur vero che qualcuno ci ha preso molto per i fondelli e ci hanno dato anche degli untori. Non è così, questa è una pandemia internazionale, come giustamente ha detto l'OMS, e va affrontata come tale. Pirla, il sole attiva la vitamina D che aiuta le difese immunitarie. Allora, a parte il fatto che, grazie per il pirla, uno può, ha un balcone, si mette su una terrazza, aspetta l'orario, sarà esposto da qualche parte sul balcone, nord, sud, est, ovest, Cristoforo Colombo, prima o poi il sole batterà su quel lato della casa e te lo pigli. Ma detto questo, abbia pazienza, lei che mi dà del pirla, ma non è che tutti i mesi di marzo noi ci abbronzavamo, ci sono stati dei mesi di marzo in cui pioveva incessantemente e lei non andava fuori a portare il cane, scendi il cane che lo piscio, non andava fuori a correre sotto la pioggia. Allora, immaginate che sia un marzo piovoso, siamo sopravvissuti a decine di marzi piovosi, marzi in cui c'era freddo, marzo in cui non si poteva andare da nessuna parte, delle volte anche aprile, e mettetevela via, su. visto gente che porta al giro il cane, col cane che chiede per favore lasciami in casa, capito? Non ce la fanno più, ci sono i cani sfiniti, cani che ormai sono diventati dei levrieri perché non ne possono più. Vabbè, dai, andiamo sul metro pubblicità e poi iniziamo sul Cura Italia di nuovo, le norme. Focus Economia. Allora, andiamo sul Cura Italia. Vedo che molti mi dicono, guardi che c'è anche la salute psichica. Sì, sono d'accordo, però lei, tra l'essere nervoso e, per carità, è difficile stare in casa, e l'essere ricoverato in rianimazione, deve pensare al male minore. Allora, notizie dei mercati, il petrolio è in caduta libera adesso. Allora, meno 18% a $22 al barile. Trump, a proposito di Jenny, quello che due settimane fa diceva è l'Italia, però insomma muoiono migliaia di americani per influenza, e minimizzava. Adesso, siccome rischia di perdere le elezioni se non gestisce bene, se non gestisce, diciamo, il coronavirus, ha appena annunciato che una nave ospedale militare è pronta ad andare a New York, e New York ha grossi problemi. La seconda andrà sulla costa pacifica, sono navi militari, ospedali galleggianti, diciamo, per farci capire. Allora arrivo fra poco al Cura Italia, vorrei andare intanto però sui mercati, perché c'è qualcosa di strano oggi che sta capitando sui mercati, strano ma positivo per l'Italia. Cioè Milano alla fine ha perso l'1,27%. Francoforte invece ha perso il 5,50%, il Dow Jones sta perdendo il 7,30%, continua a peggiorare a vista d'occhio, Parigi meno 6, Londra meno 4,5. Allora c'è la collega di Radio Corriere sulle 24 ore, Eleonora Micheli, buonasera Eleonora. Buonasera. Allora Eleonora, che cosa è successo oggi, al di là del petrolio che sta precipitando? Ma sembra che il mercato stia andando a colpire, adesso magari mi sbaglio, i paesi che sono più in ritardo di noi rispetto alla messa, hanno chiuso le città, hanno chiuso il paese solo questo fine settimana, e ancora di più gli Stati Uniti, perché insomma vedere 6% Parigi, 6% quasi Francoforte, e un calo del 7,30% nel Dow Jones, Londra il 4%, lascerebbe questa idea. Sì, esatto, infatti Wall Street sta andando molto male, il Dow Jones praticamente si sta portando sui livelli che non si vedevano dal 2017, ha bruciato moltissimi punti veramente in una manciata di sedute. Detto questo, come hai detto tu, probabilmente gli investitori, fino a che non vedono un miglioramento nei dati di contagio, continueranno ad essere negativi, e questo è l'unico motivo che sta scatenando le vendite, soprattutto negli altri paesi dove sta letteralmente esplodendo qualche ascoltatore mi dice, ma non sarà perché noi abbiamo bloccato le vendite, l'ho scoperto per i prossimi anche tre mesi, però anche la Francia le ha bloccate, esatto, e se ho ben visto anche la Spagna, però non vorrei essere inesatto, erano tra i paesi, adesso vado a cercare, Francia e Italia sono sicuro, quindi non si giustifica su questo. La Francia quest'oggi è stata praticamente la peggiore, l'indice francese ha perso il 5,9%. Comunque ovviamente la decisione della Consob si è fatta vedere soprattutto a Piazza Affari e soprattutto su alcuni titoli, numerosi titoli infatti hanno chiuso in rialzo, anzi spesso anche in consistente rialzo, proprio perché sono state chiuse delle posizioni corte cosiddette, cioè delle posizioni dove... Sì, allora, dico agli ascoltatori, guardate soldato, è vero che noi abbiamo chiuso per tre mesi le vendite allo scoperto, ma ha chiuso anche Spagna, Francia e Belgio, però faccio notare che appunto la Francia, cioè nonostante perde il 6%, noi solo l'1,20%, ti ho interrotto Eleonora. Sì, dicevo che la decisione della Consob è molto importante, va considerato che ha impattato in quanto anche nei giorni scorsi, quando c'erano delle restrizioni ma non su tutti i titoli, numerosi investitori continuavano a scommettere al ribasso, tant'è che la decisione della Consob si è vista soprattutto su alcuni titoli che sono letteralmente schizzati, semplicemente perché stanno chiudendo le posizioni. Probabilmente va detto che su Piazza Affari le posizioni ribassiste già dei giorni scorsi erano ovviamente più numerose e consistenti che non su altri mercati. D'altra parte, al di là dell'aspetto tecnico, c'è anche l'aspetto che stanno letteralmente esplodendo i contagi in Francia, sì, in Spagna, certo, e nel resto del mondo. Raccontavamo prima. Allora, Eleonora, i titoli intanto, vedo Campari più 10%, Telecom più 9,90, Pirelli più 7,80. Anche in questo caso si potrebbe trattare, come dicono i trader, sempre di una serie di chiusure di vendite di posizioni cosiddette corte, cioè si era scommesso nei giorni scorsi al ribasso, evidentemente si sono chiuse le posizioni e questo ha portato a un repentino rialzo dei titoli. Beh, poi c'è qualche ragionamento però, perché Telecom ovviamente, al di là del fatto che nei giorni scorsi magari si era scommesso al ribasso, va anche detto che Telecom è una delle poche società che continua a marciare al regime, fondamentalmente, anzi le connessioni sono fondamentali proprio in questo momento. Ok, allora Eleonora, c'è il traffico e poi ti riprendo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. No, quello che è impressionante è che anche a livello di mercato azionario questo coronavirus sta funzionando come una livella, per usare il termine di Totò, sul numero di contagiati, sulla progressione dei contagiati, come raccontiamo ogni giorno, che Francia, Germania, Spagna fanno esattamente, con pochissima differenza, tutto il percorso che ha fatto l'Italia giorno per giorno e anche sui mercati in questo momento. Dicevi, è l'onore dei Telecom Italia, poi ci sono per esempio Campari più 10,60, Amplifon più 4,90%. Allora, sono titoli che piacciono molto agli investitori esteri, quindi se scattano alcuni acquisti selettivi ovviamente si vanno a comprare soprattutto titoli che hanno perso molto ma che piacciono molto anche agli investitori esteri. Amplifon in prima fila, ad esempio anche Ferrari alla fine ha chiuso in territorio positivo. Sono i titoli che peraltro, ricordiamo, l'anno scorso ad esempio avevano registrato le miglior performance. Allora, no, qualcuno mi dice, ma il traffico... Se siamo tutti a casa, allora attenzione, perché ci sono gli autotrasportatori a cui va tutto il mio appoggio, perché sono dei grandi anche loro in questo periodo e che ne hanno bisogno. Dopodiché c'è stato un incidente, faccio notare al Brennero, perché la sfiga ci vede benissimo, un incidente, saranno formati 40 km di code, cioè il traffico per chi deve portare le merci è ancora un elemento. So benissimo che di solito il traffico non c'è, però segnaliamo anche gli incidenti. Chiuso con il traffico, invece andiamo con chi è andato molto male, perché il mercato è diviso in due, dicevo Campari, Telecom e Pirelli, poi Snam più 5,20, Amplifon più 4,80, Terna più 4, Enel più 3, Prismian più 2,90, Tenaris più 2,40. Invece Steam Electronics perde il 14%, Case New Holland il 13%, Exor meno 13%, la controllante di gruppo Fiat meno 10,80, Leonardo meno 9,5%, Nexi meno 8,40, Mediobanca meno 5,80, Atlantia meno 5,5%, Ferragamo meno 4,70. Mi fermo con chi perde più del 4%, cioè Generali e Azimut. È soprattutto, oltre a Steam Electronics, il gruppo Fiat di nuovo a essere sotto pressione, Eleonora. Sì, esattamente, soprattutto SFCA ha chiuso praticamente in calo dell'11%, già ieri era andata molto male, e questo perché gli investitori stanno mettendo in conto che quantomeno slitti l'operazione di aggregazione con PSA Peugeot, e quindi slitti anche ovviamente la distribuzione dell'autodividendo da oltre 6 miliardi di euro. Detto questo, oggi sono stati pubblicati i dati relativi alle matricolazioni europee del mese di febbraio, sono dati brutti, le matricolazioni generali sono calate del 7,2%, Fiat FCA cioè ha fatto un po' meglio, sì, certo, rispetto al mercato, se ha perso il 6,9%, comunque si tratta di dati brutti già prima peraltro dell'esplosione, diciamo, dell'emergenza sanitaria. Ok, allora per quello che riguarda Fiat, tu ricordavi poi c'è la chiusura appunto anche degli altri colossi dell'auto, la debolezza della sterlina è soprattutto sul dollaro, l'euro sul dollaro è 1,08, quindi in leggero indebolimento, ma niente di che, anche l'euro, migliori e peggiori, se ha un senso in questo periodo darli, WebSolute più 14, più quadro più 14, TAS più 14 e PRIS più 13,70, fronte opposto Vinci meno 37, Airbus meno 23, Deutsche Börse meno 18,90, Safran meno 17,5%. Grazie a Nonna Michele, Radio Cori, Sole 24 Ore. E adesso spostiamoci all'estero, alle 18 avremo l'appuntamento con la Protezione Civile, come ogni giorno, per capire sia il fronte interno ma anche e soprattutto di coesione. Allora, qualcuno mi ha scritto prima, ma guardi che non è una classifica a chi è più contagiati, non è questo, è che come diciamo da settimane, e io sono italiano, devo pensare all'Italia in primis, più la situazione diventa omogenea e uguale per tutti, più il problema è di tutti, non solo italiano, e più anche l'Italia può trovare solidarietà. È brutto dirlo, okay? Ma adesso il campo da gioco, come dicevamo due settimane fa, è uguale per tutti. Ed ecco perché mi interessa capire la progressione negli altri paesi sui contagiati e sulle misure che prendono. Tant'è che si sta creando un asse Macron-Conte, quindi Italia, Francia e con l'apertura della Germania, per arrivare o ai coronavirus bond oppure a il fondo, un fondo di garanzia europeo. Questo non serve adesso, quando ogni governo mette i tamponi, ma servirà fra qualche settimana, quando dovrai fare operazioni enormi sui redditi delle persone. E ripeto, secondo me più che dare 1.000 euro così, è meglio dare dei voucher da spendere in alberghi, in taxi, in ristoranti, in modo che tu abbia la certezza che quei soldi che tu dai vengano effettivamente poi spesi. Allora, in collegamento da Parigi, Danilo Ceccarelli. Danilo, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Allora, al di là del fatto che, Danilo, il provvedimento francese è fotocopia di quello italiano, la situazione ho visto essere molto pesante nel nord-est, con i primi trasferimenti di aerei di pazienti in terapia intensiva in altri ospedali francesi, e l'arrivo di 1 milione di mascherine annunciato dalla Francia, che arriveranno anche in questo caso dalla Cina. Esattamente. La sensazione in Francia è di aver atteso troppo, perché avevano una settimana, anzi di più, 9-10 giorni di vantaggio sull'Italia? Sì, sta cominciando ad emergere questa sensazione, legata soprattutto al primo turno, ricordo, delle elezioni municipali hanno catalizzato una serie di polemiche, soprattutto per il tasso di astensionismo che si è registrato, che è attorno al 56%, un'astensione molto forte, mentre paradossalmente tanti francesi domenica si trovavano nei parchi, negli spazi pubblici, quindi veramente una situazione. Beh, sembra l'Italia del 6-7, del weekend del 6-7, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Certo, scusami. Esattamente. In merito agli ospedali, sì, la situazione sta cominciando a diventare molto critica. Il Grand Est, la regione del Grand Est è la regione più colpita, e infatti il governo ha deciso di chiedere anche l'aiuto della difesa. L'ospedale di Mulhouse, che è uno dei ormai stracolmo, ormai al collasso sanitario, ha ricevuto in sostegno un ospedale militare che è stato costruito proprio accanto, appunto per poter smaltire un po' di pazienti, e come giustamente hai detto anche te, i primi 6 pazienti sono stati evacuati in altri ospedali dell'esercito presenti sul territorio. E quindi dimostra che, anzi la domanda che ho per te, da noi c'era stata un po' di polemica all'inizio, giusta, anche su Italia e la sanità negli anni scorsi e sui posti per esempio di terapia intensiva. Altri paesi sembravano dire, beh, ma da noi andrà meglio. In Francia, se ho ben letto, anche lì si sta iniziando a ragionare su quanto può tenere il sistema sanitario francese. Sì, esattamente, già da diversi giorni, se non settimane, l'allarme è stato lanciato proprio dal personale sanitario, da dottori, infermieri, ricordo, ci stiamo parlando di una categoria che era scesa, una delle tante categorie che era scesa in piazza nei mesi scorsi per protestare contro la riforma delle pensioni, quindi in questo momento tutte le proteste sono state messe da parte, ci si sta concentrando sulla crisi, però insomma sembrava quasi una protesta premonitrice di quello che è successo oggi. Veniamo all'asse, perché poi mi interessa anche il fronte italiano. Da quello che abbiamo capito, Macron intende continuare con l'Italia a chiedere a Bruxelles fondo di garanzia o coronavirus bond, cioè misure straordinarie, al di là delle misure che anche lui ha annunciato, che seguono quelle italiane, 35 miliardi in Francia, 25, ma che sono appunto il tampone che stiamo mettendo in questi giorni, il tampone economico. Sì, il governo francese per il momento ha previsto, ha annunciato un piano di sostegno all'economia di 45 milioni di euro. Miliardi, spero. Miliardi di euro. Proprio ieri il ministro dei conti pubblici, Gérald Darmanin, in un'intervista al quotidiano economico Les Echos, ha annunciato che per il 2020 la Francia dovrebbe registrare un deficit al 3,9% del PIL. Ricordo che prima dell'arrivo del coronavirus era prevista al 2,2%. Sì, Macron continua come del resto lo ha anche ribadito nei suoi due discorsi che ha fatto nei giorni scorsi. Vuole continuare su questa linea europeista, su questa no strategia. Ma perché ha capito, probabilmente, immagino io, che anche per la Francia se non hai un fondo europeo non ce la fa il singolo paese poi a caricarsi. La Francia già viaggiava con un deficit più alto del nostro, non il debito ma il deficit. Sì, grazie anche a Dino Ceccarelli in collegamento con noi da Parigi. Per quello che riguarda molte domande che stanno arrivando sulle possibilità di portare in detrazione, sì, erano state avanzate anche delle ipotesi da Fede Alberghi con Bocca o con Turismo, dare la possibilità a chi spende, per esempio, in alberghi, in ristoranti quest'estate, di portarle in detrazione, così tu hai un vantaggio nell'andare in vacanza, o meglio ti costa meno l'eventuale andare in vacanza, o magari riesci a spendere anche di più perché poi porti in detrazione. Io sono dell'idea che si dovranno dare dei voucher anche di carattere più basico, però non i soldi diretti nelle tasche, perché in questo momento se mi dai 1.000 euro, ripeto, uno le tiene da parte in attesa o temendo tempi ancora peggiori. 349-238-6666 per sms e whatsapp, GR24. Cinema, voli aerei, giochi, libri o web. Una vita di piccole grandi cose. E dietro sempre lei, l'economia. Sono Anna Migliorati e vi accompagnerò alla scoperta dell'economia delle piccole cose. Perché conoscere aiuta a scegliere. Vi aspetto ogni sabato dopo il GR delle 7 su Radio 24. Il nuovo ciclo di Un luogo, una storia, ambientato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Gli sbarchi degli anglo-americani nelle spiagge della Sicilia e Anzio, Cassibile e l'armistizio dell'8 settembre 1943. Milano, Firenze, Napoli, Genova e Torino. Il viaggio lungo la linea gotica da Massa alle Marche. Sono Daniele Biacchessi e dal 3 aprile vi narrerò le piccole storie che attraversano i posti e la grande storia. Ogni venerdì in podcast su radio24.it. Dalla Brexit alla Libia, dal terrorismo internazionale alle proteste di Hong Kong. Il mondo è sempre più interconnesso. Ciò che accade dall'altra parte del globo ci riguarda sempre e comunque. Per questo ogni giorno racconteremo storie, proporremo analisi, porremo domande e cercheremo insieme a voi le risposte, con esperti internazionali, voci dal campo e reporter dalla prima linea. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto a Nessun luogo è lontano, dal lunedì al venerdì alle 16, qui su Radio 24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Allora, in attesa, come ogni giorno, di avere il bollettino della Protezione Civile, Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Adesso lo stiamo mettendo in collegamento per alcuni dettagli sul DL, diciamo, coronavirus, Salva Italia. Allora, i 600 euro in più per gli autonomi non sono un una tantum, sono solo per marzo, poi vi sarà un intervento anche ad aprile commisurato alla situazione delle singole persone, l'ha detto poco fa il ministro Gualtieri. E poi c'è stato un vertice dei capigruppo, dei rappresentanti dei singoli partiti da maggioranza con Conte per attuare le misure del DL. Poi ci sono i 100 euro confermati oggi per chi ha un reddito inferiore ai 40.000 euro annui e si è recato al lavoro in queste settimane. Cioè, è stato obbligato ad andare al lavoro perché non poteva fare telelavoro per vari motivi, insomma. E questa è un'altra novità. Poi da questo punto di vista c'è un ampliamento del raggio d'azione del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese, e quindi il fondo per la sospensione delle rate mutui prima casa è ora riservato a chi perde lavoro o subisce un decesso in famiglia. Viene esteso anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti che hanno subito una flessione del fatturato di oltre il 33% e riceve una dotazione di oltre 400 milioni di euro. È importante questo modello perché è chiaro che vai a vedere, a confrontare il fatturato dell'anno precedente e poi ci sarà appunto la possibilità di avere sospensione della rata dei mutui. Basterà l'autocertificazione, poi 1.700.000.000 di garanzie e finanziamenti bancari a micro, piccole e medie imprese, e poi la moratoria dei prestiti bancari, le PMI, ha congelato, garantita dallo Stato con il Cura Italia, potrebbe congelare fino a 220 miliardi di finanziamenti alle piccole e medie imprese. Cioè, congelare vuol dire che in questo momento le piccole e medie imprese non dovranno ridarle, non dovranno pagarle indietro. Gianni Trovati, buonasera. Buonasera a voi. Dunque, le cose più: stop a tutti gli sfratti fino al 30 giugno, stop alle rate dei mutui per 200.000 partite IVA, rate dei mutui case estesa anche ai lavoratori autonomi, è quello che stavo ricordando per chi ha una flessione del fatturato superiore al 33%, Gianni? Allora sì, esattamente, la norma è finita poi nella sua versione definitiva in questa configurazione e quindi c'è questo parametro. Teniamo conto che questa norma, come tutte le altre norme di questo decreto, sono pensate proprio per l'emergenza stretta. L'idea è quella che siano, come dire, una soluzione ponte in vista di un provvedimento più ampio di indennizzo e di sostegno all'economia, ma va tenuto conto anche che per questo provvedimento più ampio al momento non c'è neanche una lira. Quello, diciamo, la fase 2, come la stiamo chiamando, cioè non il tamponamento marzo e poi aprile. La fase 2. Mm. Okay. La fase 2 mi sembra un po' presto, anche perché lì, se ho ben capito, ne parlavamo prima. Gianni, ti devo interrompere perché c'è Borrelli per il punto stampa della Protezione Civile. Resta con noi. Il totale delle persone attualmente positive è di 28.710, 12.090 sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, 2.257 sono le persone in terapia intensiva. Purtroppo oggi vi devo comunicare anche il dato dei deceduti, registriamo 475 deceduti. Per quanto riguarda l'attività di supporto alle strutture sanitarie, voglio ricordare che oggi il dato complessivo dei pazienti trasferiti attraverso il sistema della CROSS è di 55 pazienti ed è proseguita l'attività di installazione di strutture mediche campali. Ieri vi avevo parlato dell'ospedale dell'ANA di Bergamo, a Bergamo Fiere, Associazione Nazionale Alpina, e della ONG americana a Cremona. Sono in corso le attività di installazione degli ospedali da campo delle forze armate a Crema e Piacenza. Qui voglio ringraziare le forze armate che sono vicino al Dipartimento e al Servizio Nazionale della Protezione Civile e alle regioni per portare avanti l'attività di soccorso alla popolazione. È proseguita l'attività di distribuzione delle mascherine e dei ventilatori, abbiamo distribuito oltre 1.000.000 di mascherine e 40 ventilatori per la ventilazione polmonare. Per quanto riguarda le altre cose, voglio ricordare che il Dipartimento della Protezione Civile, sulla base di quelle che sono state le sollecitazioni pervenute nei giorni scorsi, ha aperto un conto corrente per raccogliere le donazioni da parte dei nostri connazionali e troverete sul sito tutte quante le informazioni sul conto corrente e gli estremi del conto corrente. Queste donazioni saranno utilizzate per l'acquisto delle attrezzature sanitarie e dei dispositivi di protezione individuale. Voglio infine concludere con... Allora, riprendo la linea. I dati sono quelli che avete sentito. Ci sono 475 morti in più in un giorno, però ci sono 1.084 guariti in più, e mi sembra un rapporto molto alto, perché eravamo abituati, ahimè, in alcune giornate ad avere un numero di guariti che era identico al numero dei decessi. E quindi cerchiamo di vedere la parte positiva. 1.084 guariti più di ieri, le vittime salgono a 2.978, i malati sono, i contagiati sono 2.648 più di ieri. Mi sembra che la progressione si stia, che in questi giorni era stata tra il 12 e il 13%, stia andando verso quella, quel livello. La cosa interessante è, dunque, intanto Wall Street ha riaperto in profondo rosso, perde l'8,11%. Tra l'altro, vedevo anche un dato, General Motors, Fiat Chrysler, Ford hanno sospeso la produzione in tutti gli Stati Uniti di auto. Però tornando agli italiani, all'Italia, scusatemi, 475 morti in un solo giorno, però 1.084 guariti, più del doppio. La cosa interessante è la distribuzione dei nuovi contagiati, perché la Lombardia, che detiene di gran lunga il record, 12.266, ne ha avuti solo, tra virgolette, 171 più di ieri e solo 20 nell'Odigiano. Invece l'Emilia-Romagna, che segue con 3.915, ne ha avuti 511 in più rispetto a ieri, che sono tantissimi rispetto al numero di precedentemente infettati. Il Veneto anch'esso sta salendo molto, 2.953 più 465, Piemonte più 2.000 più 423 a 2.000 e Marche più 174, Ligure più 83, Lazio più 100, Campania più 0, Trentino più 68, Bolzano più 84, Puglia più 42, Sicilia più 41, Abruzzo più 33, Umbria più 49. Stante le vittime, sono, la maggior parte sono lombarde, sono su 475, 319 sono in Lombardia, 65 sulle 475 vittime in più, 319 sono in Lombardia, 65 in Emilia-Romagna, 14 in Veneto, 21 in Piemonte, 23 nelle Marche, dove c'è un focolaio di cui abbiamo già parlato, e invece per fortuna sono bassissime in Sicilia 0, Abruzzo più 1, Umbria più 1, Trentino 0, Calabria 0 come aumento, Molise 0, Sardegna 0, almeno, diciamo, non notiamo una progressione nel sud. Anche in Toscana sono in tutto 22 con 5 vittime in più, è un dato assolutamente buono vista la situazione del resto del nord Italia. E Gianni Trovati, torniamo a te. Mi chiedono molto dei 100 euro per chi si sta recando al lavoro in questi giorni, come funzioneranno? Sì, funzionano, che riguardano la platea sostanzialmente appena interessata dal taglio al cuneo fiscale, cioè l'ultima grande misura prima della crisi, cioè i redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro, sono 100 euro su base mensile e in proporzione alle giornate lavorate in presenza. Questo non va, come dire, letto in contraddizione con l'invito allo smart working, certo, generalizzato, ma l'ha letto come incentivo, premio, riconoscimento a chi per in ragione dell'attività che svolge non può, come dire, sfruttare la possibilità del lavoro a distanza. È una, anche qui, come tante altre norme del decreto, è un piccolo segnale. Allora, dopo il traffico vorrei capire con te invece un po' di polemica c'è stata sulla parte fiscale, cioè il rinvio dell'IVA, dicono tutti, ma insomma cosa serve se lo fai per pochi giorni. Però una cosa la voglio dire, perché Borrelli poco fa ha detto: attenzione, il numero di guariti, ci eravamo arrivati anche noi empiricamente, però lo dice adesso in maniera ufficiale, il numero di guariti oggi è molto importante, perché è più 37% rispetto a ieri ed è il doppio dei deceduti. Ripeto, in alcune giornate purtroppo abbiamo avuto un numero di deceduti che era identico al numero dei guariti, qui sono più del doppio, e anche aggiunto i 2.648 positivi in più segnalano un trend stazionario in questa settimana, cioè dovremmo stare intorno al più 13-12%, che è molto meglio del più 26, più 30 1% della settimana scorsa, per capirci, anche perché a questo punto, se il numero totale è 28.000, che è il netto tra chi è guarito e chi è deceduto, 28.710, ieri era 26.000, siamo appunto con 2.000 in più, è in linea con l'andamento di questi giorni, dovrebbe essere più 12, più 13%. Gianni resta con noi dopo il traffico. One Express, il pallet express. Vi presenta Focus Economia. No, nessuno sta festeggiando, però in queste giornate è anche importante vedere se si sta stabilizzando il trend di crescita che Borrelli ha appena confermato, e quindi non sta crescendo, continuano a crescere, ma non crescono con maggior velocità rispetto a prima, anzi, sperem. Allora Gianni, dicevo, un po' di polemica sul rinvio delle scadenze fiscali, e abbiamo già chiarito le stop delle rate per 200.000 partite IVA che nel Cura Italia potranno dimostrare, con le rate della prima casa, che potranno dimostrare un crollo dell'attività superiore del fatturato superiore al 33%, e poi c'è anche in realtà la possibilità di uno sconto sull'affitto per i negozi, visto che il 75% ha abbassato le serrande in queste settimane. Gianni. Esatto, la polemica sulla sospensione dei versamenti fiscali è legata al fatto che naturalmente se tu sposti in avanti una data di poco o di tanto, ma non cancelli i versamenti fiscali, dal punto di vista del bilancio individuale non cambia nulla. Lì i problemi sono due: il primo veramente grande è legato al fatto che questa sospensione è arrivata a prendere forma e poi essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale dopo il termine al quale si riferiva, per cui molti l'hanno ascoltata semplicemente perché la norma non c'era e non si sono fidati a non pagare le tasse sulla base di annunci ufficiosi. L'altro aspetto da dire è che è proprio l'impianto del decreto, che è un decreto di urgenza, che fa quello che può, con le risorse a disposizione, vale oltre 12 miliardi di euro, di cassa, la questione... No, aspetta Gianni, perché abbiamo problemi con il tuo collegamento, non so perché, ma vediamo se si riesce a posizionare meglio. Prova adesso Gianni, scusami. Infatti. Non so, ci sono delle costanti sui collegamenti, io prima o poi capirò, adesso non... Trovati, ci sei? No. Vabbè, andiamo mentre cerchiamo di recuperare Trovati. Comunque vi aggiungo io il 75% dei negozi che sono chiusi a marzo. Il decreto Cura Italia introduce un credito d'imposta al 60% delle spese sostenute nel mese di marzo per canoni di locazione di negozi e botteghe, categoria C/1. Gianni, ci sei? Eccomi. Sì, perfetto. Cerca di non muoverti perché abbiamo sempre problemi col tuo collegamento. No, dicevamo... Perfetto. Dicevamo dei negozi in detrazione, no? Sì, c'è uno sconto sull'affitto dei negozi e c'è la possibilità, soprattutto per i proprietari che non incassano questi affitti, di avere un credito d'imposta che li compensi almeno parzialmente, certo, delle tasse che comunque ci devono pagare sopra. La misura non è estesa agli affitti abitativi perché non ci sono le coperture. Per gli affitti abitativi e anche per gli affitti commerciali c'è lo stop agli sfratti fino al 30 di giugno. Anche qui sono tutte misure che evidenziano tutti i loro limiti nella copertura finanziaria già come dire, tirata al massimo, che caratterizza questo decreto, che è un decreto di estrema emergenza. Non sono misure né risolutive né tantomeno in grado di cogliere tutti gli aspetti dei problemi economici che ci sono in queste settimane. C'è da sperare che cambi qualcosa sul piano degli spazi di finanza pubblica, altrimenti i problemi si ripresenteranno fra pochissime settimane. Vabbè, uguali aprile. Sì, perché quelli che stiamo cercando di scongiurare. Hai ragione, per cambiare gli spazi di finanza pubblica, però è chiaro che non basta dare all'Italia lo sforamento del deficit, l'abbiamo già tutto incamerato con questa manovra da 25 miliardi. E bisognerà poi dare di più, ecco perché parlavo dei coronavirus bond oppure del fondo del salvataggio europeo, perché con questi soldi tu sei già arrivato, hai già fatto una manovra solo per marzo, avrei bisogno di molti molti più soldi, e non tutti a deficit, altrimenti il problema poi ci ritroviamo fra qualche mese o anno. Grazie intanto a Gianni Trovati. Devo dire che per fortuna anche l'Istituto Superiore della Sanità conferma che l'aumento dei casi non è così veloce al sud, che sappiamo essere il tema in questo momento, oltre alla tenuta di Milano, la cosiddetta battaglia per di Milano, cioè Milano non può arrivare ad avere i numeri che abbiamo visto, ahimè, a Brescia e a Bergamo. Però il sud è l'altro fronte di questa guerra, perché è una guerra, è inutile cambiare termini. Il sud per ora, io faccio qualunque gesto, sta tenendo, cioè l'aumento dei casi non è così veloce. Spostiamoci invece in un paese dove l'aumento dei casi è veloce, perché pochi istanti fa si è arreso anche Boris Johnson, ha annunciato l'intera Gran Bretagna la chiusura delle scuole. Leonardo Maisano, collegamento con noi da Londra. Buonasera Leonardo. Buonasera a voi. Allora, abbiamo raccontato in questi giorni della Francia, della Spagna, dei documenti e dei provvedimenti fotocopia, almeno dovrebbero dire grazie all'Italia che ci ha spiegato come si fa, addirittura il modulo che uno scarica dai giornali francesi è identico al modulo italiano, i provvedimenti sono identici. Adesso la Francia ha dichiarato in questo momento lo stato d'urgenza sanitario che consente di requisire tutti i beni e i servizi necessari. La Francia sta avendo i problemi che avevamo noi 9 giorni fa, non reggono gli ospedali del nord e dell'Alsazia, trasportano le persone in terapia intensiva con gli aerei militari in altri ospedali. Mi sembra che la linea di Johnson sia, la diga di Johnson sia venuta giù in modo rapidissimo, Leonardo. Sì, è precipitata nel volgere di poche ore, come era ampiamente prevedibile. È stato veramente un comportamento più che vergognoso, ridicolo. Ridicolo, che è anche peggio di vergognoso in sto periodo, secondo me. Esatto. E in un paese che ha un quadro davvero preoccupante, prima di tutto è una megalopoli, cioè Londra, una città da 11 milioni di abitanti dove tutti vanno ancora in giro metropolitana, primo. In secondo luogo ha un sistema sanitario nazionale che è già tirato per il collo, come dire, in termini di ventilatori e di apparati per la respirazione nelle terapie intensive. Si dice che ne abbiano circa la metà di quelle che ci sono in Italia. Figurati. Questo per dire qual è il quadro della situazione. I numeri sono oggi, sono 2.626 casi e 104 morti. I morti sono aumentati del 50% da un giorno all'altro, i casi sono aumentati del 40%. Quindi si sta andando verso una dinamica analoga a quella che abbiamo visto. Sì, cioè 2.600 casi, siccome io ho la tabella sotto mano, sono esattamente l'Italia nel a marzo, il 3 marzo. Esatto. Il problema è che la Gran Bretagna, se non avesse avuto questo atteggiamento, come dire, scettico, perplesso, poi non voglio entrare nel dibattito scientifico perché francamente non me ne intendo e rispetto assolutamente gli scienziati di questo paese che hanno un curriculum, che hanno dei curriculum assolutamente, cioè non sono dei matti, ma sono state comunque perdute quelle 2 settimane di vantaggio che avrebbero consentito, è quello, come che dire, continuiamo di a ripetere anche cosa agli spagnoli e ai francesi. C'eravamo, esatto, noi, ci guardavate come gli untori, l'Italia, l'italien, qua e là, e avete bruciato il vantaggio che involontariamente vi avevamo dato. Questo è il c'è dramma. Da dire, dal punto di vista culturale, che c'è stato all'inizio un approccio così, questi concetti vagamente darwiniani, come dire, sì, sopravvivono, ecco, sono delle cose che hanno, che dalle quali Boris Johnson pagherà un prezzo politico, perché questa sapere, cosa, certo, rischia di essere davvero drammatica per questo paese come per gli altri, ma potenzialmente proprio per, come dire, la concentrazione di Londra, rischia di essere una motivazione. Infatti, notizia importante, il numero di questi morti passati da 70 a 106 in un giorno, sono nella stragrande maggioranza Londra e sud-est, eccoci, dove è inevitabile che ci sia. Ti sento molto rassegnato, Leonardo. Mi rendo conto che da italiano, vivendo lì a Londra, vedendo che non si faceva nulla con quel pazzo che ha detto ma facciamo, dovremmo rinunciare ai nostri cari, e non è stato l'unico, perché c'è un altro pazzo in questo, da questo punto di vista, che è Trump, poi chiudo la puntata, che dopo averci detto la settimana scorsa che era poco più di, che c'erano molti più morti di influenza, sapete cosa ha appena dichiarato? Io sono un presidente in tempo di guerra. Evidentemente anche lui ha cambiato idea, una magra consolazione. Grazie anche a Leonardo Maisano, un augurio a tutti voi di passare una serata in casa, ma il più possibile serena, e noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.